I frati europei lo raccontavano. Ah, una piccola parentesi, perché io salto da una parte all'altra, quindi chiedo scusa di questo, perché non sono mai organico, perché mi piace raccontare così. Non è detto che l'Africa non sia stata frequentata dagli europei, è sempre stata frequentata, anche già dall'epoca dei Romani. I Romani sono arrivati praticamente, dicono, quasi all'attuale Khartoum, quindi non è che non si frequentasse. Perché? Perché era una terra ricca, l'Africa, la si considerava sempre una terra di grandi risorse. Si favoleggiava anche di queste sorgenti del Nilo, di dove erano queste sorgenti del Nilo. E le sorgenti del Nilo erano vicine al paradiso terrestre. Perché il paradiso terrestre, fin nel Medioevo, era considerato dove? Era in Etiopia, vicino all'India Terza. L'India Terza era l'Africa nera, oltre l'Etiopia, oltre quella che poi è stata chiamata l'Abissinia. E guarda caso, sono proprio le montagne da cui nasce il Nilo. Perché sembra addirittura che i romani sapessero da dove nasceva il Nilo, proprio dalle montagne lì delle Ruvenzori e compagnia. E il paradiso terrestre era localizzato là, tant'è che chi possedeva le sorgenti del Nilo era vicino a Dio. Quindi noi, la cultura occidentale, ha sempre vissuto l'Africa in maniera distaccata, lontana, in maniera sbagliata. Io devo dire una cosa, e torno, adesso ho fatto una digressione storica, vi faccio una cosa, esperienze che sono capitate a me. Voi adesso uscite da qui, uscite da fu e andate fuori e vedete improvvisamente un omino, un omone, quello che volete voi, verde con un occhio solo. Voi che reazione avete? E che vi guarda, che vi squadra, che ha in mano degli oggetti strani. Voi siete colti dal terrore puro, perché dite, a cavolo, lì sono arrivati i marziani. Se io vi dico che nel sud dell'Etiopia, da buon, non dico turista, perché in quell'occasione non ero in una spedizione antropologica, invitati dall'allora dittatore Mengistu. Scusate una cosa, altra parentesi, ma questo ci torno dopo. Chiudo subito la parentesi, non vi dico niente, la dico dopo. Dal dittatore etiopico Mengistu aveva invitato me, l'antropologo Salza, qualcun altro, Viviano Dominici, a un giro nel sud dell'Etiopia per dargli una valutazione se era il caso o no di aprire quelle zone al turismo. Allora, avevamo l'Egip con le guardie armate e tutto quanto, arriviamo giù nei luoghi dove Bottego andò 100 anni fa, ed era proprio il centenario della spedizione di Bottego. Arriviamo in un villaggio, noi scendiamo, il sottoscritto scende, come fanno i turisti quando scendono? Appena vedono queste popolazioni stupende, stupende, perché noi ci stupiamo poi dei leoni, delle giraffe, e certe volte non ci stupiamo dell'uomo, perché l'uomo non è un animale, è qualcosa di più. Queste persone bellissime, questi bambini strepitosi, noi usciamo, scendiamo, prendiamo le macchine fotografiche. E di fronte a noi tutti che scappano. Hanno visto i marziani. Hanno visto l'uomo bianco per la prima volta. E come si presenta l'uomo bianco per la prima volta? Da colonizzatore, perché arriva, deve fotografare. Ma cosa gliene frega di fotografare? Impara un attimo. Questo l'ho imparato dopo, eh? Queste sono esperienze che si fanno in Africa. In altre zone, noi tutti siamo andati in Egitto, in Tunisia, quella. La prima cosa che arrivano i bambini, cosa fanno? Bacchis, bacchis, oppure la pena, oppure la caramella. Il Piero Marangoni, quando va in Africa vera, una volta, ha andava con le tasche piene di caramelle, caramelle alla fragola perché a me piacevano. Lui mi guarda come dire, forse l'ha vissuta anche lui senz'altro, perché lui l'ha vissuta l'Africa nera veramente. Allora io arrivo lì e si corrompono questi qui, per fargli fare la foto, gli dai la caramella. E però si impara anche lì. Questo prende questo oggetto, scusa se prendo il tuo telefono, la caramellina, la guarda, non sa che cos'è. Mettere in bocca, no? E questo prende la caramellina e se mette il coccate tutto in bocca. Cosa sto facendo? Mai più in Africa con caramelle. Perché questi non hanno bisogno di vivere con le nostre caramelle. Loro è un mondo spietato, brutto, di puzza, di polvere, di fango. Che cosa andiamo a dargli la caramella alla fragola? Ecco. Vi ho portato questi due esempi che porto sempre perché li ho vissuti come frustate sulla mia coscienza. L'Africa non ha bisogno di questo. L'Africa ha bisogno neppure di quella parola che noi usiamo tantissimo, che è solidarietà. Solidarietà è un concetto per me molto abusato, banale, ma che determina sempre un distacco tra me e il prossimo. Quando ero piccolino, mi insegnavano che c'era l'amore per il prossimo, che è completamente diverso dalla solidarietà. La solidarietà è pelosa e distante. L'amore per il prossimo è quello che capita il giorno in cui voi tutti andrete in Africa, pagandovi l'aereo per andare ad Asmara, consigliabilissimo, è una delle mete più consigliabili per andare in Africa, e vivete lì, non con le grandi compagnie di viaggio, da soli, perché ad Asmara potete vivere tranquillamente da soli, nessuno vi fa niente. Però già lì incominciate veramente a capire alcune cose. Io ho avuto la fortuna, io ho studiato a Trento nel 68, io ho avuto la fortuna in quegli anni di frequentare, grazie all'UISP, i paesi dell'Est. Quando sono tornato ai paesi dell'Est, ho detto a tutti, andate nei paesi dell'Est a imparare cos'era allora il socialismo reale, il comunismo. Adesso dico a tutti, andate in Africa a capire che cos'è il rapporto con il prossimo, non la solidarietà, ma l'amore verso il prossimo. Un'ultima cosa. L'Africa la si vede, è come vedere Bolzano se uno va al Catinaccio o al Mendola, a San Genesio o al Colle. Ah, di Bolzano delle considerazioni diverse, dei punti di vista diversi. Purtroppo alcuni punti di vista sono fuorvianti perché non danno l'immagine della realtà, soprattutto se uno rimane basso. Per l'Africa, devo dire, uno dei punti di vista peggiori e che ha causato la povertà in cui sta non è stato, è stato sì il colonialismo degli anni passati, ma negli anni recenti è stato, e scusatemi, forse qualcuno mi sgriderà e non mi inviterà più a parlare di Africa, è stata l'ideologia marxista. È stato un disastro assoluto. Perché? Voi, quando io sono andato tra i Mursi, al confine con il Sudan, è una popolazione che vive, diciamo, su un altopiano, nella Valle dell'Omo, dove sono degli uomini bellissimi, alti 2 metri, uno può dire, può rimanere incantato, nero veramente come il carbone, non c'è niente più nero della mia giacca, alti 2 metri, belli, atletici, per gli esteti completamente nudi, con una lancia, con un bastone, no? E sono popolazioni che non hanno mai avuto contatto con altri, sono molto aggressivi gli uni con gli altri, sono culture proprio. Perché Perché? Perché ci sono dei problemi, tipo le mosche tsetse, che per esempio coprono tutta la fascia sotto e quindi impedisce uno spostamento delle persone, perché sono bestie terribilmente pericolose, sono più pericolose dei serpenti. Tant'è che nella nostra Jeep avevamo il tergicristallo, e questo è documentato da foto, una volta ve le farò vedere, con gli sciami di mosche tsetse che se pungono quelle, uno rimane un po'. Ha delle conseguenze e quindi questo impedisce anche a loro certi spostamenti. Allora, noi andiamo su, vediamo questa gente qui, le donne hanno quei famosi piattelli che avete visto tante belle volte, no? Che le bambine hanno il chiodo in bocca e si fanno tirare via i denti perché, no? Vabbè, tutte queste cose che affascinano noi e che è meglio che continuino così che non avere le scarpe Adidas ai piedi. È giusto invece che abbiano dei medicinali che poveretti non hanno perché hanno una mortalità, e lo sottolineava lui prima, drammatica, è quello che dobbiamo intervenire. Dobbiamo portare questo genere di aiuti, non certamente le magliette Adidas o ideologie di cui loro non se ne fanno niente, perché sono vissuti 2000, 5000 anni senza aver fatto la Cappella Sistina. E vabbè, pazienza, noi l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto un certo percorso. Loro sono in condizioni tali che non potranno mai fare la Cappella Sistina, non potranno mai esprimere e realizzare un razzo che va sulla Luna. Ma chi se ne frega, lo facciamo noi, mica lo devono fare tutti. Cosa facciamo? Tutti quanti dobbiamo essere tutti uguali. Vedo l'orologio giù in fondo che i miei 10 minuti stanno scadendo, però vi voglio leggere una lettera di un esploratore italiano, perché si fraintende troppo spesso che gli italiani sono stati dei grandi colonialisti dell'Africa. Hanno preso quello che rimaneva negli anni del fascismo, è vero. Prima, onestamente, gli italiani in Africa non sono andati a fare i colonialisti, anche se spinti da un'Europa che diceva andate, anche l'Italia deve andare in Africa. Quando siamo andati nel 1800 e rotti a Massawa con i soldati al porto di Massawa, dove c'è un caldo e un'umidità che bestiale, sono arrivati là vestiti di lana perché erano partiti d'inverno con le navi e sono andati là. Io dico, ma come poveretti sono andati a fare lì, a proposito di Eritrea, e hanno fatto, sì, per scopi commerciali, pseudo commerciali, che cosa c'era da prendere in quegli anni là? Non lo so. La ferrovia Massawa Asmara è, sì, si parla della muraglia cinese, perché questa qui è solo 300 chilometri, però in un territorio, ma chi gliel'ha fatto fare nel 1890 e l'hanno finita nel 1911, una ferrovia dal porto di Massawa a Mar Rosso andare a 2400 metri di Asmara in un territorio di granito, gallerie scavate nel granito con la tecnologia di allora, ma a fare che cosa? E con una teleferica che, vabbè, quindi gli italiani hanno fatto come al solito in quegli anni, scusa se spezzo una lancia, hanno fatto un po' così, gli illusi, che poi ovviamente tra gli illusi dello stupido c'è sempre e le sciocchezze si fanno. Poi nei tempi più recenti, vabbè, non mi esprimo sull'epoca del fascismo che è andato giù, però anche gli esploratori italiani, che vengono sempre considerati con grave errore fascisti, durante il fascismo non c'erano esploratori, gli esploratori italiani andavano in Africa nel 1860, prima ancora dell'Unità d'Italia, e sono dei fiore di esploratori e di persone che andavano, ecco, Casati, a cui si è ispirato Bacchelli nel Mal d'Africa, era uno di quelli che andavano là con quel cuore italiano che purtroppo è la grande fortuna e la sfortuna che abbiamo, è quella che ci prende, è quella che continua a far andare il Paolo Valente, il Nicoli, il sottoscritto e spero anche voi in Africa, perché è quello, perché è molto più bello dare qualcosa a chi non lo chiede che non a chi lo pretende, perché qui appena usciamo abbiamo tutti quelli che pretendono di essere aiutati. In Africa nessuno vi chiede niente ed è molto più bello poter dare qualcosa a loro. Volevo dirvi, vi leggo una lettera di Piaggia, di Carlo Piaggia, un esploratore metà del 1800 italiano, che andavano in questi posti, andava in Sudan come Miani, in posti veramente malsani, lo sono ancora, lo sono drammaticamente scostanti perché sono difficili per noi, in cui c'è tutta la filosofia, non dico del buon selvaggio, no, del buon selvaggio di Rousseau, no, lasciamolo perdere, ma c'è una visione che per me a 150 anni è estremamente attuale. E c'è solo, per leggerlo, lui usa la parola selvaggio, siamo nel 1880, selvaggio non perché erano abitanti della selva e non c'era allora da dire extracomunitario, straniero, qua e là. Si usava nel linguaggio comune la parola selvaggio, però taratelo su allora. Le ferrovie, i telegrafi e le macchine in genere portano la civiltà in nuove contrade e in nuovi popoli. Invece i selvaggi non sentono bisogni nella loro semplice vita e non sono per niente ambiziosi, ma limitati nei loro bisogni. A me pare erronea, questo è uno che ha fatto tutta la vita là, come gli altri, a me pare erronea la sentenza che portare i vapori e le macchine bastino a portare la civiltà in nuove contrade e fra i popoli. I vapori è inteso quello che possono essere gli aerei adesso, le manifatture, no? I vapori portano invece nuove leggi. Il selvaggio non ne ha e non ne sente il bisogno. I vapori portano le manifatture preparate dalle macchine. Il selvaggio non ha ambizioni e ci vogliono secoli prima che si adatti ai bisogni artificiali della civiltà. Infine i vapori non hanno altro da offrire che un guadagno per gli europei. Adesso il discorso è più diverso, lui l'ha sottolineato, la presenza degli americani sì, ma in Africa dei cinesi è da farci venire i capelli così. Guadagno per gli europei. Il selvaggio non conosce ancora interesse come noi la intendiamo. E anche adesso è così l'africano, invece che essere. Che possono fare i vapori per i popoli africani se non portar loro fucili e munizioni? Questo lo diceva nel 1880. Questa non si chiama civiltà, ma barbarie. 1880, 2007, l'Africa è sempre la stessa. E vi, con questo ho concluso, e vi invito una volta di prendervi un aereo, adesso ci sono anche i low cost, e andare in certe zone dell'Africa, tipo questa di Asmara. Grazie dell'attenzione, scusate. Ringrazio per la testimonianza. Adesso io sarò ancora più breve, visto che ognuno promette di essere breve, e quindi dirò brevemente cosa mi ha portato in Africa e poi vi leggerò anche una piccola cosa. Io, diciamo, devo la conoscenza dell'Africa e la mia presenza in Africa alla collaborazione col gruppo missionario di Merano, di Alpidio Balbo, che probabilmente tutti conoscete, che mi ha arruolato un po' tra i suoi. Io l'ho aiutato un po' nel lavoro di comunicazione, nel lavoro culturale, eccetera. E quindi sono andato con lui, ho cominciato a guardarmi intorno anch'io. Ecco, diciamo, ho cercato fin da subito di partire senza impegni e senza pregiudizi. Non dovevo andare a fare qualcosa e quindi avevo la libertà, se vogliamo, di vedere la realtà per quello che mi appariva in quel momento. Sono stato diverse volte poi con lui e senza di lui e adesso sto pian piano portando avanti alcuni dei suoi progetti. Però naturalmente sono stato in Africa anche col mio bagaglio professionale e ho cercato di raccontare quello che vedevo e di dare voce alle persone soprattutto che ho incontrato. Io penso che molti dei nostri ragionamenti sull'Africa, anche dei nostri pregiudizi sull'Africa, dell'immagine che noi abbiamo di questo continente che secondo me è talmente variegato che addirittura dire Africa è una cosa un po' pretenziosa, no? Perché c'è di tutto e di più. Ecco, molto di questo viene meno nel momento in cui non solo si va in Africa, ma soprattutto si conoscono le persone, si instaurano rapporti personali, perché questo in definitiva, lo sappiamo anche noi nella nostra realtà altoatesina, che i pregiudizi nei confronti di quello che consideriamo altro vengono meno nel momento che questo altro è il nostro amico, è il nostro cognato, è il negoziante a cui ci rivolgiamo ogni mattina, è l'insegnante, eccetera. Allora quando l'altro assume un volto, un nome, un cognome, molti pregiudizi vengono meno e questo ci aiuta anche a valutare la realtà. Questo è valso anche per me nel rapporto con l'Africa. Quando ho cominciato a non vedere davanti l'africano, ma l'amico col tal nome e cognome che fa quella professione, eccetera, le cose sono cominciate un po' a cambiare. Diciamo che noi come europei e occidentali abbiamo forse partiamo con un handicap di fondo e questa è la convinzione che noi in Africa andiamo a portare qualcosa, andiamo a insegnare qualcosa. Tutto questo è anche vero, non è che non sia vero. È vero anche che come noi andiamo a portare, per secoli siamo andati a prendere in realtà, no? Ecco. È vero che l'Africa è rispetto agli altri continenti, è il continente del mistero, questo è profondamente vero, ma è anche il continente dove tutto il resto del mondo è andato a prendersi quello di cui aveva bisogno e continua a farlo, no? Gran parte delle guerre attualmente in corso derivano da questo voler arraffare e continuare a impadronirsi delle risorse. Dunque, è vero che noi andiamo a portare qualcosa, soprattutto quando parliamo di cooperazione, allo sviluppo, eccetera. È vero che andiamo a insegnare, nel senso che trasmettiamo tecnologie, come nel caso dell'informatica, che sono necessarie allo sviluppo. Però, se si ferma qui il nostro rapporto con l'Africa, è un rapporto non vero, perché in realtà poi chi ci va non torna a mani vuote, torna sempre con qualcosa che ha a sua volta preso, che ha a sua volta, diciamo così, ricevuto in dono, non preso perché l'ha rubato, ricevuto in dono. Questa è anche una verità profonda dell'Africa. Io in particolare me ne sono accorto quando ho cominciato a girare questi villaggi i più sperduti, quelli dove non c'è ancora la luce elettrica, quindi non c'è la televisione, quindi la cultura originaria si mantiene intatta e ho incominciato naturalmente con i miei amici che conoscono la lingua a farmi raccontare le loro favole. Questo è il lavoro che poi io ho fatto molto spesso, che ho raccolto appunto in questi due volumi che ci sono anche qui. E proprio per concludere vorrei leggervi una di queste favole perché leggendola si capisce molto di più probabilmente di quanto io potrei dire. Poi dirò anche solo due parole di commento. Questa favola si chiama Gocce di pace e mi è stata raccontata in un villaggio a 3 ore di distanza, 3 ore di fuoristrada, su strada sterrata, dalla prima città, diciamo così, di questa zona dell'Africa, nel nord del Benin. ci troviamo dalla parte opposta dell'Africa rispetto all'Eritrea e all'Etiopia. Gocce di pace. Il mio racconto vola, rotola e si ferma alle porte di un villaggio. Là vivevano un fratello e una sorella. Si volevano un gran bene i due e non si separavano mai per nessun motivo. Il fratello si chiamava Cielo, la sorella Terra. Essi erano niente meno che i figli del creatore di tutte le cose. I due ragazzi, fin da piccoli, erano sempre vissuti l'uno accanto all'altra, senza mai litigare seriamente. Avevano mangiato insieme, giocato insieme, lavorato insieme, e i giorni, gli anni, i secoli erano passati senza che nulla potesse turbare la perfetta intesa esistente tra cielo e terra. Tutto ciò fino al giorno in cui Dakara, il gallo, così per semplice curiosità, volle sapere chi dei due figli del creatore fosse il maggiore. Questa domanda importuna, infilatasi incauta tra fratello e sorella, divenne oggetto di un'accesa discussione. Il cielo esclamò perentorio: «Non sono certo io il minore, infatti io posso vivere senz'altro anche da solo», aggiunse. Pure la terra continuava a sostenere di essere lei la sorella maggiore. «E non ho davvero bisogno di te», fece sapere al fratello. Il creatore di tutte le cose, da parte sua, si rifiutò di immischiarsi in questo litigio, ritenendolo sciocco, e non volle affatto svelare ai suoi figli chi dei due fosse il più grande. Si limitò ad affermare: «Non potrete mai vivere l'una senza l'altro». Tuttavia la lite durò per giorni, per settimane e per molte lune, finché, non trovando altra soluzione, cielo e terra si separarono. Una giornata molto ma molto triste. Ora, bisogna sapere che tra i sudditi del cielo c'era Acqua. Arrabbiato com'era, il cielo ordinò ad Acqua di non rendere più visita alla terra, per nessuna ragione. Allora l'acqua, sebbene a malincuore, cessò di scendere sulla terra e restò lassù a tenere compagnia al cielo, il quale ora, pur senza ammetterlo apertamente, si sentiva terribilmente solo. Era come se gli fosse venuto meno un pezzo di cuore, come se gli mancasse l'aria per respirare. Sulla terra, intanto, senza acqua, tutto cominciava a seccare. Ogni cosa era destinata ad avvizzire e presto a morire. Di fronte a tale desolazione, la terra si rese conto di non poter stare senza il cielo. Dopo lunga riflessione, decise di andare a far visita al fratello per riconciliarsi con lui. Dakara, che senza volerlo aveva scatenato la bega, fu scelto come mediatore. Dapprima il gallo si recò dal suo amico, il cielo. Poi chiamò la terra e l'accompagnò dal fratello. La terra allora riconobbe con franchezza di avere bisogno del cielo, e il cielo dovette ammettere di avere sofferto una tremenda solitudine. Ora, a dimostrazione del fatto che aveva accettato di riconciliarsi con la sorella, mandò sulla terra migliaia, milioni, miliardi di piccole gocce d'acqua. È ciò che noi chiamiamo pioggia. Le gocce riportarono la vita sulla terra e sono ancora oggi il segno della pace e della riconciliazione tra i due fratelli, la terra e il cielo, figli inseparabili del creatore di tutte le cose. Il mio racconto è felice, vuole volare via e portare a tutti la buona notizia, ma piove forte forte oggi. Il mio racconto allora se ne sta in pace sotto questo mango e ammira in silenzio lo spettacolo delle gocce che cadono. Grazie. Solo tre parole a commento. La prima è l'importanza dell'acqua. Tenete presente che questo racconto io l'ho riscritto, l'ho riformulato, però l'originale me l'hanno raccontato in questo villaggio. L'importanza dell'acqua come elemento che dà vita e quindi l'importanza di intervenire in questo settore quando si fa cooperazione internazionale. Ma l'acqua anche come simbolo. E qui l'Africa, il continente del mistero, l'Africa profondamente religiosa, cioè permeata di religiosità, un luogo in cui non è pensabile separare la terra dal cielo. Questa è un'esperienza, secondo me, quotidiana che si fa in Africa, no? Nella normalità. E questa è anche una grossa differenza, se vogliamo, col nostro modo di pensare. Infine, questo racconto, un villaggio, un anziano che racconta una favola come questa, vi sembra che sia una persona, vi sembra che sia un popolo che ha qualcosa da apprendere da noi, o non è forse viceversa? Grazie.